Abbastanza? Sì. Sì. C'è domande? Confusione? Suono. Ah sì, in the back. Difference between pain and suffering. Ha chiesto la differenza tra dolore e sofferenza. Dolore e sofferenza. How many people are completely new? Quante persone sono completamente nuove? Ok. So this is a subtle distinction. È una distinzione sottile. Because the Buddha is trying to make a distinction between what is given to us as human beings. I buddhisti cercano di fare una distinzione tra ciò che ci è dato come esseri umani. And how we react or respond to it. E come noi reagiamo o rispondiamo a questo. So the body gives us pleasure, but it also gives us pain. Quindi il corpo dà piaceri, ma anche dà dolori. This is inescapable. E questo non si può scappare a questo. Once you have a body, you have pleasure and you have pain. Una volta che avete un corpo, quindi avete piacere e dolore. How you relate to your pleasure and pain is going to cause a second level of experience. Come ci si relaziona a questo dolore e piacere è, può essere detto, un secondo livello di esperienza. So on the one side, when we have pleasure, we like to keep it, we like to make it grow. E quindi, da una parte, quando abbiamo il piacere, vogliamo mantenerlo e farlo crescere. So this relationship we call attachment. Questa relazione la chiamiamo attaccamento. If we could allow a pleasure to arise and pass away and say goodbye, no problem. Se noi potessimo lasciare che un piacere insorge e poi svanisce e dirgli ciao, allora non c'è problema. When pain arises, we want to push it away. Quando il dolore insorge, noi vogliamo spingerlo via. If the pain is too much, we want to escape. Se il dolore è troppo, vogliamo scappare. So we have aversion and fear. E quindi abbiamo avversione e paura. If we can stay calm and accepting of pain, there's no problem. Se potessimo stare calmi ed accettare il dolore, non ci sarebbe problema. Unless the pain is unbearable. A meno che questo dolore non sia insopportabile. Then you have to take paracetamol, eh? Allora a questo punto devi prendere il paracetamolo. So there's a distinction between pain and suffering. Quindi c'è una distinzione tra il dolore e la sofferenza. And pleasure and excitement. E il piacere e l'eccitazione. The excitement, you see. So now when you're sitting, you're trying to be clear as to what is arising and how you are reacting. Quindi mentre sedete cercate di fare chiarezza su ciò che insorge e come reagite a questo. So now, the noting technique can help you be very clear. La tecnica delle annotazioni può aiutarvi a fare questa chiarezza. So for instance, pain in the knee. Ad esempio, un dolore nel ginocchio. So, I become aware that the knee is unhappy. Divento consapevole che il ginocchio non è felice. So there's pain. So my noting word is pain. E quindi c'è dolore e la mia parola di annotazione è dolore. So dolore, and then I notice I want to move. E poi mi rendo conto che voglio muovermi. So this is the aversion. I don't want to stay there. E questa è l'avversione, non voglio stare lì. But I stay there. I don't move. Ma io ci sto e non mi muovo. I notice aversion. E prendo nota, avversione. So there are two things going on: pain from the knee, aversion from the mind. Quindi ci sono due cose che vanno insieme, che accadono: il dolore nel ginocchio e l'avversione nella mente. I see. So I feel the aversion. Io sento l'avversione. And the pain, so long as the pain does not become too much, I stay feeling the pain, feeling the aversion. E quindi, a meno che il dolore non diventi veramente troppo, io rimango lì a sentire il dolore e sentire l'avversione. As I become used to the pain, the aversion begins to disappear. E quando io divento abituato al dolore, l'avversione comincia a scomparire. I find I am equanimous, patient with pain. Io trovo l'equanimità e patience. E la pazienza per il dolore. Where's the suffering? Dov'è la sofferenza? Sì. Then I go into the pain. Allora io vado dentro al dolore. What do I find when I go into the pain? Cosa trovo quando vado dentro al dolore? I find sensations. Sensazioni. Maybe heat, maybe pressure. Forse calore, pressione. But my noting word has changed. Ma la mia parola di annotazione cambia. Before it was pain, now it's heat, pressure, stinging. Prima era dolore, ora diventa pressione, calore, puntura. Sì. So this is my basic level of perception. E questo è il mio livello di base di percezione. This is perceiving the body. E percepire il corpo. Physical sensations. Sensazioni fisiche. The second level of perception gives this feeling a meaning. Al secondo livello di percezione si dà un significato a queste sensazioni. Pain. Dolore. So now we know. Pain does not exist. Ora sappiamo che il dolore non esiste. What exists are these sensations. Quello che esiste è questa sensazione. So pain is a mental construct. Dolore è un costrutto mentale. So this tells us we need to see the doctor. Che ci dice che dobbiamo andare a cercare il dottore. So we don't want to lose the perception of pain. Noi non vogliamo perdere la percezione del dolore. But we want to understand that it actually doesn't exist. Ma noi vogliamo capire che in realtà non esiste. What exists, what we experience, are sensations in the body. Quello che esiste e che noi facciamo esperienza sono sensazioni. When we observe this, we're beginning to understand how we create the world. Quando osserviamo questo, cominciamo a capire come noi creiamo il mondo. When I see something, what is it that the eye actually sees? Quando io vedo qualcosa, cos'è che l'occhio veramente vede? See? It doesn't see a human beings. It doesn't see tables or floors. Non vede esseri umani, tavolini, pavimenti. See? The eye doesn't see that. This is the mind. L'occhio non vede queste cose, è la mente. So, separating the body from the mind is the first vipassana insight. Separare il corpo dalla mente è la primo insight, intuizione della vipassana. And to see that the one arises dependent on the other is the second vipassana insight. E vedere quello che insorge in dipendenza dell'altro è il secondo insight della vipassana. So you can see that the Buddha is always asking us to deconstruct our experience. E quindi il Buddha ci chiede sempre di decostruire la nostra esperienza. To see whether within this human being there is anything which is solid. Per vedere se dentro a questo essere umano c'è qualche cosa di solido. Va bene? Sì. Now, the noting helps you to make this distinction, you see. E le annotazioni mentali aiutano a fare questa distinzione. Because the note is a reflection. La nota è una riflessione. So if you can be precise with your noting, it means that you are beginning to see clearly. Se potete essere precisi con le annotazioni, significa che cominciate a vedere chiaramente. Who does not find the noting easy? Chi è che non ha trovato facile fare le annotazioni? Sì, tutto facile? No. Queste note mentali di cui ha parlato. Can you better explain what you mean? Yes, if pain, so I'm feeling the pain. Dolore, io sento il dolore. And my note is pain. La nota pain. È dolore. Then I see the aversion. E se vedo l'avversione, avversione. At first it seems just a little contrived. How do you say contrived? A little false. Contrived. Come si dice? Contrived. Un po' creato per finta. Così. But after a while it becomes a habit. Ok, all'inizio questo modo di prendere annotazioni sembra un po' artificiale. Artificiale, ecco. E poi dopo diventa più chiaro. Next it becomes like a habit. Dopo diventa una abitudine. So this takes, two or three days. But even though you're only summer staying for a weekend, you can still get a habit of it. E ci vuole 2 o 3 giorni, ma anche se state solo per il weekend, potete entrare in questa abitudine. If you can't find a word, don't worry. I just use a simple generic word like feeling. Se non riuscite a trovare una parola, non vi preoccupate, usate una parola semplice, generica, come sensazione. You may find that language is not so good at describing feelings. Potreste scoprire che il linguaggio non è così preciso nel descrivere le sensazioni. So nobody has any difficulties with it. No, I don't believe it. Non ci credo che nessuno ha avuto difficoltà con questo. No? Ah, sì, sì, sì. Say it in Italian because everybody understands. Oh, it's Oh, right. Okay. He's the only one. Ah, okay, okay, okay. So you're feeling the pain, but actually that's already a mind's naming of the sensations, isn't it? Yes, it's a reflection. Can you? Allora, quando senti il dolore. Sorry, can you repeat? When you're feeling the pain? In other words, is the feeling the same as the naming? I think. Allora, la sensazione è la stessa cosa del dare il nome? Così, yeah. Again, in Buddhist psychology, a moment of consciousness can only have one object. Nella psicologia buddista, un momento di coscienza può solo avere solamente un oggetto. So one consciousness is the feeling of pain. Allora una coscienza è la sensazione del dolore, una. Another consciousness is the reflection pain. E un altro momento di coscienza è la riflessione che dolore. Dice dolore. Dolore. The mind is moving so fast that it seems as though it's happening at the same time. La mente si muove in modo molto veloce e sembra che queste due cose avvengano nello stesso tempo. But actually they're two moments. Ma in realtà sono due momenti. Sì. Ed è, voglio dire, intellettuale, sì, emotions, magari per altri, cosa succede? Come si fa? When you have a pain which is coming from, you know, an emotion or mood. Sì, quando si ha un dolore che viene da una emozione, uno stato d'animo, non fisico, diceva lei. Sì, exactly the same. È assolutamente la stessa cosa. So you might be feeling, should we say, anxious. Magari si sente una sensazione di ansietà. Ah. So when it comes to mind, you say, oh, anxiety, anxiety, feel it, feel it. E quando si porta alla mente, si dice ansia, ansia, sensazione, sensazione. Feel it, no, feel it. Sentilo. Sentilo. And then you see you don't want to be there, you're afraid of anxiety. E poi senti che non vuoi stare lì, che hai paura dell'ansia. So you have anxiety, fear of anxiety. E quindi si ha l'ansia e la paura dell'ansia. So now you stay with these two things. E a questo punto stai con le due cose. You feel the anxiety, you feel not wanting to be there. Senti l'ansia e senti che non ci vuoi stare. And you stay there. E ci stai. Until you become accustomed to the feeling of anxiety. Finché non diventi abituata alla sensazione di ansia. And then the fear of anxiety disappears. E a quel punto la paura dell'ansia scompare. Then there's just anxiety. Equanimity and patience. E rimane equanimità e pazienza. Sì? And then this anxiety begins also to disappear. E poi anche l'ansia comincia a scomparire. But it will come again. Ma tornerà. So it keeps coming and it keeps going. Perché continua a insorgere e svanire. But every time it comes and you've not reacted, ma tutte le volte che arriva e non si reagisce, the energy in the psyche, in the mind, which is anxiety, is slowly being exhausted. L'energia che c'è nell'ansia, nella mente, cioè l'ansia, piano piano si esaurisce. These moods and emotions, the difficult moods and emotions, take their time to exhaust themselves. E le sensazioni e stati d'animo difficili ci vuole tempo per farli esaurire. You can definitely tell a difference because they're not so strong and they don't last so long. You can tell the difference. Potete vedere la differenza perché non sono così forti e non durano così tanto. Yes, this becomes clear to you over a period of 25 to 40 years. Questo vi diventerà chiaro durante un periodo dai 25 ai 40 anni di osservazione. This is a long process. Sono processi lunghi. No miracles. Non ci sono miracoli. But it's a great feeling of liberation when you feel that you can stay with a negative mental state and be at peace with it. Ma è una grande sensazione di liberazione quando si può stare con uno stato mentale negativo ed essere in pace con questo. Now, we have been learning just awareness, just mindfulness. Noi stiamo imparando la consapevolezza. You can also bring metta, loving kindness, into your practice. Potete anche portare la metta, la benevolenza, nella vostra pratica. So when you feel this anxiety, quando si sente quest'ansia, you can hold it in kindness, gently. La potete gentilmente sorreggere nel tenere con la metta, con la gentilezza amorevole. You can hold it with kindness, see? As if you were holding a child who was unhappy. Come se steste abbracciando un bambino che è infelice. So, now this undermines any sense of aversion to what you're experiencing. Dissolve ogni senso di avversione verso questa esperienza. But you still investigate the sensations, the feelings. Ma ancora stiamo investigando la sensazione. And you can observe how they're arising and passing away. Everything is impermanent. E possiamo osservare come tutto insorge e svanisce ed è impermanente. And you can see it's an object in your mind. E potete vedere che c'è un oggetto nella vostra mente. So there's something that knows the object, and there's the object. E quindi c'è qualcosa che conosce l'oggetto, e poi c'è l'oggetto. So these two cannot be the same thing. E quindi queste due cose non sono la stessa. The perceiver cannot be the perceived. Ciò che percepisce non può essere ciò che è percepito. One reason I know you are not me is because I perceive you outside me. Una ragione per cui io so che tu non sei me è perché io ti percepisco fuori da me. So I am taking that process inward. E io sto spostando questo processo nell'interno. You can also remind yourself that this anxiety or joy came whether you wanted it to or not. It came of itself. E potete anche ricordarvi che questa ansia o questa gioia è venuta da sé, senza che voi l'avete voluto. Ah, so the center of control must be somewhere else. E quindi il centro di controllo è da qualche altra parte. One of the reasons I know I'm not you is because I can't control you. Una delle ragioni per cui io so che io non sono te è che non posso controllarti. Ah. So, making these insights in our meditation is the process of recognizing that there must be something in us which is not part of that process. E avere queste intuizioni nella meditazione fa capire che c'è qualcosa dentro di noi che non è in questo processo. Va bene? Sì? Ah! Sì. In Italia? Sì, sì, sì. Ma quanto bisogna riuscire a meditare al giorno per avere dei benefici? How long? Non è... devo ripetere perché qua giù non hanno sentito. Quanto è necessario meditare, un tempo minimo da dedicare alla meditazione ogni giorno nella nostra vita, diciamo, normale, no? Dove siamo impegnati tra lavoro, famiglie, tante... Sì. Qual è, diciamo, il tempo che bisognerebbe iniziare a dedicare come sorta di allenamento alla meditazione? I'll put a bit of paper up so they can ask questions for when they leave. Sì, dopo si metterà un foglio così si possono scrivere delle domande. For any questions about daily life, economics, politics, everything will be revealed. Per domande sulla vita di tutti i giorni, economia e politica, tutto sarà rivelato più tardi. There'll be a paper for people leaving tomorrow. Ci sarà un foglio per le persone che se ne vanno domani. But just to answer the question quickly, optimum is usually 40 minutes in the morning and sometime in the evening. Per rispondere brevemente, i tempi ottimali sarebbero 40 minuti la mattina e un po' di tempo nella sera. But as we are discovering here, the sense of awareness, we should train ourselves to keep the sense of awareness all the time. Ma come si fa allenamento e si scopre qui, il senso di consapevolezza, noi stiamo allenandoci per mantenerlo per tutto il tempo. So in a sense there's no distinction between sitting and doing. E quindi in un certo senso non c'è differenza tra meditazione seduta e fare qualcosa. So that's why the work period in the morning is very important. E quindi questo è il motivo per cui il periodo di lavoro al mattino è molto importante. Ecco. Abbastanza. Sì. Perfetto. Allora. Vuoi fare camminata? Now, those of you who've not done the walking meditation, can you stay here and I'll show you how to do it. Per quelli che non hanno mai fatto la meditazione camminata, rimangono qui e Bante spiega come fare. Sì. I will introduce you to the mystery. Vi introdurrò nel mistero della camminata. Sì. Vabbè. Everybody? No. Dai. Avete tutti bisogno di istruzioni sulla camminata? Sì, stai qui. Hai altri? They've been instructed. Oh, scusi. Have they been instructed in meditation? No. Voi avete avuto già le istruzioni sulla camminata? Previously, aspetta, but in the Mahasi tradition. In the Mahasi nella tradizione Mahasi, hai. No, sai. Oh no, Ananda. No. Oh no, Ananda. No. Ah. No way. So everybody, tutti, yeah? Okay. Mm. So if we can form a circle. Formiamo un cerchio. You don't want to record this part. Okay. Yeah.